teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Vicondo. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 9 ottobre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E in questa puntata, cari radioascoltatori, torniamo ad occuparci finalmente di astronomia, come sapete è la nostra passione. Ci occuperemo di astronomia per un preprint uscito qualche giorno fa, il 5 ottobre del 2010, su Astronomy e Astrophysics. In questo preprint si parla di un interferometro bolometrico, fondamentalmente una specie di termometro per calcolare la temperatura dello spazio. Esattamente non è così, ma insomma è una metafora molto utile per parlare di questo strumento, intitolato Cubic. Di questo esperimento, di questo Cubic che sarà messo in Antartide, ne parleremo col dottor Elia Battistelli del Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma La Sapienza. Buongiorno dottor Battistelli. Buongiorno ai radioascoltatori. Dottor Battistelli, all'interno della trasmissione, nella prima parte della trasmissione, cercheremo di parlare di che cos'è la radiazione cosmica di fondo, qual è la sua importanza, qual è stata l'evoluzione delle conoscenze della radiazione cosmica di fondo nel corso del tempo, quindi quali sono stati i vari satelliti, i palloni aerostatici che sono stati messi in atmosfera per studiarla, eccetera, eccetera. Ma se lei dovesse spiegare esattamente che cos'è un bolometro a un ascoltatore di Cacciafotone, nelle 100 parole iniziali che un po' fanno da cappello alla nostra trasmissione, lei come lo spiegherebbe? Sì, un bolometro è sostanzialmente un chip, una resistenza che è molto sensibile alle variazioni di temperature. Noi utilizziamo questi rivelatori per rivelare appunto la radiazione di fondo cosmico, che è una radiazione che pervade tutto l'universo ma che è molto debole, quindi abbiamo la necessità di avere dei rivelatori molto molto sensibili che siano in grado di rivelare piccolissime variazioni di temperatura, ad esempio quando si fa una mappa del cielo. Quindi un bolometro, che è questo oggetto che permette di rivelare queste temperature, variazioni di temperature molto piccole, è proprio l'oggetto adatto a fare questo tipo di misure. Sono già stati utilizzati dei bolometri in passato, ad esempio nell'esperimento Boomerang o negli esperimenti che hanno volato su satelliti americani come l'esperimento COBE. Noi pensiamo di utilizzare i bolometri in una configurazione leggermente diversa, appunto combinando il segnale in un sistema interferometrico, quindi creando l'interferenza della radiazione rivelata da più bolometri e quindi riuscendo a risolvere dei problemi di rumore che altri ricevitori, altri esperimenti invece devono rimuovere in sede di analisi dei dati. Dottor Battistelli, a questo punto intanto la ringrazio per aver risposto sinteticamente alla nostra domanda. A questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Come già detto nella prima parte della trasmissione, cercheremo di descrivere un po' la fisica che c'è dietro questo esperimento, quindi che cos'è la radiazione cosmica di fondo. Nella seconda parte della trasmissione invece cercheremo di analizzare che tipo di esperimento è Cubic, perché verrà messo in Antartide, quali sono le sue caratteristiche e soprattutto che cosa ha di differente rispetto agli esperimenti precedenti. A questo punto musica e poi torniamo in studio. A dopo. Remember when we met that evening? You had that all-surrounding smile. I touched you once as you were leaving. You disappeared just for a while. I wander and search for you. Don't move on. Shall I wander and wander on? Do you feel like this? Do you really feel like this? feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can somehow. You gave my life another meaning. I was always on the run. Forget my anxiousness, I'm dreaming. Sharing time and having fun. Don't move on, I'm trying to reach for you. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, qui a Cacciafotone. In questa puntata ci stiamo occupando di un argomento a noi caro, quindi l'astronomia, e ne stiamo parlando cercando di analizzare un preprint uscito su Astronomy e Astrophysics che cerca di analizzare o presentare, meglio ancora, un esperimento, un interferometro bolometrico chiamato CUBIC. Questo interferometro bolometrico servirà a studiare la radiazione cosmica di fondo. È un esperimento composto da più ricercatori e da più gruppi di ricerca, e ne stiamo parlando col dottor Battistelli del Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma La Sapienza. Ora, dottor Battistelli, per cercare di entrare un po' nell'argomento, che è un po' il modo con cui trattiamo tutte le volte Caccia al Fotone, quindi nella prima parte un pochino descriviamo la fisica di base, mentre nella seconda parte cerchiamo di analizzare meglio il paper, la radiazione cosmica di fondo, quindi quella specie di suono residuo del Big Bang, come lo possiamo definire? La radiazione di fondo cosmico è una radiazione che pervade il nostro universo e che sono onde elettromagnetiche che hanno caratteristiche intorno appunto alle microonde, più precisamente a lunghezza d'onda del millimetrico. E viene spesso definita come radiazione fossile perché si origina direttamente dall'esplosione iniziale, dal Big Bang. Infatti l'universo, dopo la primissima esplosione, appunto il Big Bang, era sostanzialmente un plasma, un miscuglio di radiazione di materia in cui la radiazione non poteva propagarsi liberamente, semplicemente perché i fotoni interagivano con la materia in modo molto, molto frequente. Con l'espansione dell'universo e con l'abbassamento della temperatura dell'universo è avvenuto la ricombinazione, la formazione sostanzialmente degli elementi leggeri, degli atomi di idrogeno e di elio, e la radiazione da quel punto in poi ha cominciato a propagarsi liberamente nell'universo, e da quel momento è iniziata la formazione delle strutture, delle galassie, dei pianeti che poi vediamo oggi. Quindi a quel momento la materia ha cominciato a evolversi nella formazione delle strutture, e la radiazione si è potuta propagare liberamente per l'universo, ed è quella che noi oggi vediamo e chiamiamo appunto radiazione di fondo cosmico. Dottor Battistelli, ovviamente la radiazione di fondo cosmico, o la radiazione fossile come lei l'ha definita, ha delle particolari caratteristiche. Quali sono le caratteristiche fondamentali di questa radiazione, se la dovesse descrivere, quindi i punti chiave della radiazione cosmica di fondo? Un punto credo fondamentale di questa radiazione è il fatto che, provenendo da molto lontano, siccome la velocità della luce, come predetto da Einstein nella relatività speciale, ha una velocità costante, guardare lontano significa anche guardare nel passato. Se io guardo il Sole, vedo la luce che è stata emessa 8 minuti fa dal Sole. Se io guardo la radiazione di fondo cosmico, sto guardando la radiazione che è stata emessa dall'universo 13 miliardi di anni fa. Questa radiazione è caratterizzata da un'enorme isotropia, cioè se io guardo in qualsiasi direzione dello spazio osservo che questa radiazione è uguale in tutte le direzioni. In realtà, guardando più attentamente, si vedono delle piccole anisotropie, delle piccole variazioni di intensità in determinate posizioni della sfera celeste, e queste sono proprio le piccole anisotropie che hanno permesso la formazione delle strutture. Se l'universo fosse stato completamente omogeneo poco dopo il Big Bang, non si sarebbero create quelle instabilità gravitazionali che poi hanno permesso la formazione delle strutture. Ecco, dottor Battistelli, ovviamente per parlare della radiazione cosmica di fondo, in teoria ci vorrebbe un'intera puntata come facemmo nel passato alcuni anni fa qui a Caccia Fotone, parlando solo e soltanto della radiazione cosmica di fondo. Ma nella radiazione cosmica di fondo c'è una storia, come c'è una storia in tutte le evoluzioni delle scoperte scientifiche, delle conoscenze scientifiche. La bellezza della scienza in fondo non è tanto nella risposta, ma tanto nella domanda. La storia della radiazione cosmica di fondo parte da Penzias e Wilson e poi si evolve con l'invio o di alcuni palloni aerostatici per studiarla, oppure con l'invio di alcuni satelliti che hanno affinato meglio le nostre conoscenze. Ecco, in che modo si è evoluta la nostra conoscenza della CMB nel corso del tempo? Sì, la radiazione di fondo cosmico sostanzialmente prova le teorie che erano state formulate prima della sua scoperta e sostanzialmente che si basavano sul modello del cosiddetto Big Bang, il modello che prevedeva appunto che l'universo fosse stato originato da una grandissima esplosione iniziale e che si stesse espandendo e raffreddando al contempo. Questa prova è venuta in modo più diretto proprio dalla radiazione di fondo cosmico, che si osserva oggi avere una temperatura appunto di 3 Kelvin, mentre quando era stata generata aveva una temperatura di 3000 gradi Kelvin. Nel corso della storia appunto abbiamo dapprima scoperto la radiazione stessa, poi con Penzias e Wilson, poi col satellite americano Cobb abbiamo scoperto che in effetti non aveva una perfetta isotropia nella sfera celeste, bensì che aveva delle piccole anisotropie, appunto delle piccole variazioni di temperatura se guardate da una parte o dall'altra. Questo era la prova del fatto che quelle piccole anisotropie fossero proprio i semi iniziali che hanno poi dato origine a tutto ciò che osserviamo oggi, alle strutture, alle galassie, a noi stessi. Successivamente, anche grazie al contributo italiano, appunto ho già citato l'esperimento Boomerang, un telescopio montato su un pallone stratosferico, abbiamo potuto fare delle mappe dettagliate di questa radiazione di fondo cosmico, sapendo o perlomeno ipotizzando quali fossero le dimensioni angolari, le dimensioni di queste piccole anisotropie sulla mappa, sulla sfera celeste, abbiamo potuto estrarre qual era la nostra percezione delle stesse, ossia sapere come la radiazione si era propagata all'interno di tutto l'universo, e quindi di fatto sapere qual era la metrica, la chiamiamo così noi, la metrica, la geometria dell'universo. Questa è stata la più grande, diciamo, scoperta degli ultimi anni, fatta proprio da un esperimento italo-americano, l'esperimento Boomerang. Ecco, non vorrei che ci perdessimo un dato importante. Si parla anche di polarizzazione della radiazione cosmica di fondo, quindi questa radiazione ha un segno più e un segno meno e una direzione. Naturalmente, il prossimo passo è la caratterizzazione della polarizzazione della radiazione stessa. Noi sappiamo che la radiazione di fondo cosmico è polarizzato perché nella fisica, nel modo in cui si è originata la radiazione di fondo cosmico, sappiamo che ci devono essere state delle simmetrie tali per cui adesso il piano di polarizzazione della radiazione di fondo cosmico deve avere una certa simmetria. È però possibile che eventi accaduti ben prima della generazione della radiazione di fondo cosmico possono aver lasciato una traccia nella radiazione di fondo cosmico stesso. Questo è proprio la ricerca più interessante che adesso coloro i quali lavorano in questo campo si prefiggono. Quindi lo studio della polarizzazione della radiazione di fondo cosmico provocata dalla cosiddetta inflazione cosmica. E quindi, dottor Battistelli, lei ci ha un po' descritto in questo intervento che cos'è la radiazione cosmica di fondo e quali sono le sue proprietà. Entriamo un pochino nell'argomento della trasmissione, cioè effettivamente questo qubic, questo interferometro bolometrico che verrà installato in Antartide per andare a rilevare la temperatura dello spazio e meglio ancora le anisotropie, cioè quelle piccole differenze che definiscono una delle tante caratteristiche della CMB, della radiazione cosmica di fondo. Ora, come interferometro bolometrico, quindi come esperimento, ovviamente questo esperimento ha molti antenati. Quali sono un po' le mamme e i papà di questo qubic? Beh, direi che l'esperimento Cubic, come spesso succede, ha degli antenati sia da parte di madre che da parte di padre. Ha degli antenati della parte bolometrica e degli antenati della parte interferometrica. I bolometri sono questi piccoli chip, queste piccole resistenze che sono sensibili, sono molto sensibili a piccolissime variazioni di temperatura, quindi di fatto riescono a rivelare una radiazione molto debole come quella della radiazione di fondo cosmico. D'altra parte i bolometri di per loro sarebbero immersi in del rumore e in degli effetti sistematici che sarebbero difficili da capire nel misurare la radiazione di fondo cosmico e la polarizzazione dovuta all'inflazione cosmica della radiazione di fondo cosmico. E quindi si è cercato di unire l'altissima sensibilità dei bolometri con l'eccelso controllo del rumore che caratterizza gli interferometri. Gli interferometri sostanzialmente in radioastronomia, attraverso l'utilizzo di due o più antenne che raccolgono la radiazione proveniente da uno stesso oggetto e che poi questa radiazione viene fatta interferire, appunto, viene combinata, la radiazione proveniente da più antenne viene combinata e si può, attraverso questa combinazione, attraverso questa interferenza, appunto, si possono tirar fuori le informazioni di tipo spettrale, di tipo della frequenza e di tipo spaziale dell'oggetto che si stava osservando. Sostanzialmente è come avere se io ho due antenne ad una distanza d, è equivalente ad avere un grandissimo telescopio alla stessa distanza, senza però avere le difficoltà tecniche e tecnologiche di dover costruire questo grande telescopio. Dottor Battistelli, a questo punto ci fermiamo per un attimo, ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torniamo in studio e nella seconda parte della trasmissione, come promesso ai nostri radioascoltatori, andremo ad analizzare questo preprint uscito il 5 ottobre 2010 su Astronomy e Astrophysics, in cui si parla del Cubic, l'interferometro bolometrico di cui abbiamo accennato in questa ultima parte. A dopo. I could God in the dark, I see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, and then from the start it is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh, baby, let me go. Now I go out in the dark, smiling back at your face, with a nice and cozy feeling after leaving your place. This world will lead me somewhere I don't really know, but it's someone always makes my name somehow. Let me go, let me go, let me go. Stop trying, let me go, let me go, let me go, let me go. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, qui a Cacciafotone. Questa settimana ci stiamo occupando di uno degli argomenti a noi più cari, quindi un argomento astronomico, e stiamo parlando della radiazione cosmica di fondo. L'argomento l'abbiamo switchato non tanto sui concetti basilari della radiazione cosmica di fondo, di cui avete sentito parlare nel corso della prima parte della trasmissione e anche nelle scorse puntate degli scorsi anni qui a Cacciafotone, ma su un interferometro bolometrico che verrà in installato in Antartide. Ora, l'interferometro bolometrico è fondamentalmente una specie di termometro, un termometro molto molto raffinato. Di questo interferometro, o meglio di questo preprint uscito su Astronomy e Astrophysics, in cui si presenta questo interferometro, ne stiamo parlando col dottor Elia Battistelli del Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma La Sapienza. Ora, dottor Battistelli, noi abbiamo in mano il suo preprint uscito su Astronomy e Astrophysics e lo abbiamo un po' letto. Ecco, la cosa bella di quando esce un articolo, un preprint su una rivista scientifica, quindi come Astronomy e Astrophysics, è un po' cercare di capire come si è sviluppato questo paper, questo articolo. Ecco, chi ci ha lavorato effettivamente a questo articolo, a questo progetto e soprattutto quanti gruppi sono coinvolti per realizzarlo effettivamente, questo interferometro bolometrico chiamato CUBIC? L'idea di effettuare un interferometro bolometrico è nata indipendentemente in due gruppi alternativi. Il gruppo gestito sostanzialmente diretto dal nostro gruppo qua di Roma, che voleva dare origine all'esperimento BRAIN, e un altro gruppo gestito da un'università americana che avrebbe voluto dare origine ad un esperimento MBI. Questi due gruppi si sono poi, visto la comunità di intenti, sia dal punto di vista astrofisico, cioè la volontà di rivelare la polarizzazione della radiazione di fondo cosmico, sia la comunità di intenti dal punto di vista tecnologico, si è deciso di unire questo sforzo. Successivamente a questo, quindi, è stato dato, si è creata questa grande collaborazione con una partecipazione italiana, francese, inglese, americana, che appunto ha portato, tra le altre cose, ad un importante incontro, un importante meeting che abbiamo fatto a luglio a Parigi. Senta, dottor Battistelli, questo esperimento CUBIC, che cosa vuole dimostrare? Cioè, vuole affinare i risultati che la comunità scientifica, la comunità astronomica ha già in possesso, o si immagina di dimostrare qualcosa di nuovo? Uno dei problemi fondamentali nella misura che vogliamo fare noi non è tanto la sensibilità dei rivelatori, bensì il controllo di tutti quegli effetti che non riusciamo a controllare. E quindi quello che vuole fare questo esperimento è sostanzialmente fare una misura priva di effetti sistematici, di disturbi, in modo molto migliore di quello che non sia stato fatto in passato. Senta, su quello che ha appena detto ci ritornerò su, però per adesso la scelta di metterlo non su un pallone aerostatico, non su un satellite, ma di metterlo a terra, dipende unicamente da un problema fondi o dipende da scelte del gruppo? Ci sono molti motivi. Uno è sicuramente il fatto che un satellite, costruire un esperimento su un satellite costa moltissimo e moltissimo di più di quello che non costi fare un esperimento a terra. Inoltre, solitamente su un esperimento posto su un satellite si mette necessariamente una tecnologia tra virgolette vecchia. Quindi se noi, come stiamo facendo, vogliamo proporre una cosa molto innovativa, è impensabile che riusciamo a metterla su un satellite prima di averla testata a terra. Inoltre c'è un motivo squisitamente astrofisico. I segnali che vogliamo rivelare, appunto la polarizzazione della radiazione di fondo cosmico e in particolare quelli originatisi dall'inflazione cosmica, sono segnali molto molto deboli, e come si sa, per rivelare un segnale molto debole dobbiamo fare misure con tempi di integrazione molto molto lunghi. Ora, per fare questa cosa è necessario quindi un posto che sia accessibile per anni sostanzialmente, quindi è evidente che ad esempio un pallone stratosferico non può essere utilizzato, visto che tipicamente gli esperimenti da pallone stratosferico durano qualche settimana. C'è inoltre una considerazione da fare che viene in nostro aiuto. Ovviamente un esperimento da satellite o da pallone stratosferico sono migliori rispetto a esperimenti da terra, per via del fatto che non c'è l'atmosfera che trasmette, che non lascia trasmettere al 100% la radiazione. Detto questo, però, la polarizzazione, a differenza dell'intensità, non viene sostanzialmente toccata dall'atmosfera terrestre, e questo, diciamo, è una cosa vantaggiosa che possiamo sfruttare e che in realtà stiamo anche cercando di provare al 100%. Dottor Battistelli, a questo punto torno un attimo sull'intervento di prima, perché mi sembra doveroso dover sottolineare un aspetto che forse non è molto chiaro. Lei ha detto che questo esperimento cerca di eliminare tutti quegli errori sistematici che lo strumento potrebbe avere. Ora, forse non è molto chiaro, ma ogni strumento scientifico ha un errore sistematico, ha più errori sistematici che in teoria bisogna calcolare nel momento in cui si fanno i conti, tra virgolette. Ecco, c'è qualche modo per eliminare gli errori sistematici, oppure si devono solo eliminare da punto di vista statistico e non tecnologico? Sostanzialmente è così per quasi tutti. Ovviamente ci sono esperimenti ben fatti che sono affetti da più errori sistematici, o magari troppo nuovi che ancora la gente non conosce, che sono affetti da errori sistematici. Purtroppo è uno dei problemi che dobbiamo affrontare e che appunto necessitano lo sviluppo di tecnologie nuove e che permettono quindi di risolvere o perlomeno di affrontare in maniera diversa un determinato problema. Uno dei problemi fondamentali che con l'interferometro può essere risolto è appunto la radiazione, la cosiddetta stray light, cioè la radiazione che incide sul rivelatore a causa della diffrazione, non direttamente nella direzione in cui l'esperimento sta guardando, bensì da una direzione diversa, ad esempio proveniente dalla Terra. Questo è un effetto che potrà essere molto molto migliorato con un esperimento interferometrico, e quindi diciamo è un esempio lampante di quello che vogliamo noi. A questo punto lasciamo per un attimo il discorso degli errori sistematici di cui abbiamo parlato in questa ultimissima parte e andiamo a recuperare il nostro esperimento, l'esperimento dell'interferometro bolometrico chiamato Cubic. Ecco, per andare a rilevare la radiazione cosmica di fondo, a che frequenza questo interferometro deve lavorare e in particolare in quali bande? La radiazione di fondo cosmico è una radiazione che ha il suo massimo 220 GHz sostanzialmente. Naturalmente, per rispondere alla sua domanda è necessario anche considerare il fatto che non esiste solo la radiazione di fondo cosmico nell'universo. Esistono molti effetti astrofisici che emettono a lunghezze d'onda e a frequenze completamente diverse. Quindi sostanzialmente è necessaria una copertura spettrale, quindi osservare a diverse lunghezze d'onda e a diverse frequenze, in modo tale da poter distinguere la radiazione di fondo cosmico stessa dalla emissione della galassia, dalla emissione di altre galassie, dalla emissione delle polveri, dalla emissione delle radiosorgenti. Cubic osserverà a tre frequenze, a 90 GHz, a 150 GHz e a 220 GHz. È come se fossero dei filtri che vanno a identificare un certo colore, che fanno trasmettere soltanto la luce rossa, la luce gialla e la luce verde. Qua noi mettiamo dei filtri fatti in modo leggermente diverso, che appunto permettono di rivelare soltanto la radiazione ad una lunghezza d'onda, o perlomeno all'interno di una certa banda. Ecco, proviamo a fare un esperimento che possiamo fare solo nel radio, perché dobbiamo lavorare un po' di immaginazione. Se avessimo la TV con un'immagine risolveremmo tutto. Ma se dovessimo immaginarci questo esperimento, ce lo dovremmo immaginare come una specie di telescopio con una enorme macchina fotografica sotto, o ce lo dovremmo immaginare costruito in altro modo? Solitamente i nostri esperimenti sono effettivamente dei telescopi con delle grandissime macchine fotografiche sotto, raffreddate a temperature criogeniche. In questo caso la situazione è un po' diversa, perché il telescopio è dentro alla macchina fotografica, quindi è un enorme cosiddetto criostato, un enorme bidone, tutta la parte strumentale, incluse le antenne che riescono a rivelare la radiazione, dei piccoli telescopi e gli array, appunto i rivelatori, che permettono di effettivamente rivelare la radiazione. Questi ricevitori, questi criostati, sono tipicamente raffreddati a temperature via via decrescenti. L'esterno è naturalmente la temperatura ambiente, ci sono dei cilindri concentrici a temperature sempre più basse, tipicamente scende a 77 Kelvin, a 4 Kelvin, e poi i rivelatori si vogliono raffreddare alla temperatura di 0,3 Kelvin, 0,3 gradi sopra lo zero assoluto. Senta, in che modo si muoverà questo strumento? Fondamentalmente sto chiedendo in termini tecnici se la montatura di questo strumento è equatoriale oppure alta azimutale, ma visto che nel paper non è esattamente descritto, lo voglio chiedere direttamente a lei. L'esperimento verrà montato su una struttura alta azimutale, quindi avrà un asse di rotazione parallelo all'orizzonte ed un asse di rotazione che permetterà di scansionare dallo zenith, da nord fino all'orizzonte. In realtà è indifferente per questo tipo di osservazioni quale tipo di montatura si concepisce per questo tipo di esperimenti, in quanto quello che si vuole fare è una mappa piuttosto diffusa di tutto il cielo, e non si pretende di andare ad inseguire determinati oggetti come spesso fanno invece gli astronomi. Senta, dottor Battistelli, vado verso l'ultima domanda della trasmissione, quindi vado verso la parte finale, un po' di caccia fotone. Voi sicuramente avrete dei modelli di risposta dello strumento, che cosa vi dovrà dire lo strumento e altre cose. Se l'esperimento funzionasse, quali sarebbero le risposte che vi state aspettando dallo strumento e quali invece le risposte che vi direbbero che l'esperimento ha fallito? Questa è un'ottima domanda. Purtroppo il risultato che darà Cubic dipende molto da quello che i teorici ci diranno. Sostanzialmente, come ho detto, il goal fondamentale di un esperimento come Cubic è quello di rivelare la traccia dovuta all'inflazione cosmica nei primissimi istanti di vita dell'universo. Se questa energia sprigionata nei primissimi istanti di vita dell'universo è abbastanza alta, Cubic riuscirà a vederla e quindi a dimostrare indirettamente sia che l'universo ha intrapreso un'espansione esponenziale nei suoi primissimi istanti, sia ad esempio che esistono le onde gravitazionali, uno delle predizioni della relatività generale di Einstein, che però ancora non si è provato in modo diretto. Naturalmente ciò non può anche succedere che o che l'inflazione non è esistita o che l'energia di questa inflazione sia così bassa da non permettere a Cubic di vederla. Dottor Battistelli, intanto la ringrazio per la pazienza con cui ha voluto rispondere alle nostre domande. A questo punto do l'appuntamento ai nostri radioascoltatori, sia coloro che ci ascoltano in radio, sia coloro che ci ascoltano in podcast, a sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e come al solito stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie, dottor Battistelli. Grazie a lei, arrivederci.